24 mattino. Questi bonus vacanze sono in realtà o no? Io ho una struttura turistica, la gente continua a chiedere se io li accetto, chiamo in banca per sapere se me li prenderanno, se posso cedere questo credito d'imposta loro, e la banca mi risponde: ma guarda che non sono, non c'è la legge, bonus vacanze ufficialmente non esiste. Ma quale cassa integrazione? Per alcuni, per chi ha un contratto di 12 mesi l'anno, per chi ha contratti di 9 mesi l'anno nelle ristorazioni a mense scolastiche, gli hanno bloccato la cassa integrazione a giugno, quindi si ritroveranno senza nessun ammortizzatore sociale, senza nessuna entrata economica. Simone, buongiorno. Io consegno generi alimentari e quindi ci lavoro 12 ore al giorno con la mascherina a 30 gradi. Lo so, amico mio, mi dispiace, però così è il tema di questa decisione della Regione Lombardia di estendere l'uso della mascherina fino a metà luglio. Pesante, però se tocca farlo, lo facciamo. Sulla cassa integrazione, sì, cioè ci sono oggettivamente alcune categorie che sono state escluse dai benefici e anche dal sostegno sociale. È un tema che evidentemente andrà affrontato, e andrà affrontato molto molto rapidamente. E infine la questione dei bonus. Siamo perfettamente d'accordo, il bonus vacanze, l'ascoltatrice che è un'operatrice turistica se lo ricorderà, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, nello spazio alle 8:20, anche con Maria Latella, e qua c'è un tema ancora una volta di complicazione. Perché? Perché, lo ricordo per chi non fosse del settore, il bonus vacanze funziona così. Tu vai, per esempio, in albergo, gli dici: voglio usufruire del bonus vacanze. L'albergo cosa fa? Ti deve mettere lui l'80%, l'albergatore l'80% del bonus vacanze, il quale diventa un credito d'imposta, e questo credito d'imposta poi l'albergatore lo può cedere ad un altro soggetto. Mentre invece va in carico all'utente l'altro 20%, e anche quello poi va messo in dichiarazione dei redditi. Insomma, forse si poteva fare un po' più facile. E comunque, come ci diceva l'ascoltatrice, evidentemente ancora non è operativo, almeno secondo alcune banche. E faremo le dovute verifiche anche su questo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, ma anche per i messaggi scritti al 349-238-6666. Come l'ascoltatore che ci scrive a proposito della questione dei bonus, dice: ho vissuto 2 anni in Norvegia, hanno un assegno universale per il figlio, parlavamo prima delle misure per la famiglia, mandata la richiesta, mi è arrivato dopo una settimana. Che bello. Che invidia anche, eh? La seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, sono le 7:21 minuti, è martedì 30 giugno e gran parte delle prime pagine dei quotidiani, delle aperture dei quotidiani sono dedicate alle questioni di politica economica, alla questione del MES, dell'utilizzo del MES. Il Messaggero mette insieme il MES e gli appalti e parla di un governo diviso. Il Quotidiano Nazionale ci parla solo degli appalti, meno vincoli e burocrazia. Il Sole 24 Ore entra nel dettaglio, appalti pubblici, un anno senza gare. Il Corriere della Sera invece sceglie il MES, così come fa la Repubblica, il Fondo Salva Stati. Prova di forza sul MES è il titolo del Corriere, che ieri ospitava la lettera di Zingaretti. MES, no di Conte al Partito Democratico, è il titolo della Repubblica. La Stampa invece intervista il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il quale dice che ci vuole subito la riforma dell'IRPEF, ed è, lo mette in apertura questa intervista. Anche Avvenire parla di appalti liberi e MES, che sono i nodi del rilancio. Sugli appalti titolano con un occhio critico anche il Fatto Quotidiano e il Manifesto. Il Fatto Quotidiano: semplificare sì, condonare no. Decreto così non va, dice il Fatto Quotidiano, perché si parla dell'ipotesi di sanare gli abusi. Il manifesto, sulla stessa linea, qui si sana, è il titolo principale. C'è una foto del Presidente del Consiglio con un caschetto da vigile del fuoco in questo caso. Libero ci dice niente guerra agli evasori, ma lotta dura al contante. La Verità torna sull'inchiesta che riguarda la Caritas di Bergamo. Gli immigrati, un miracolo fatto da Dio per darmi i soldi, sono le intercettazioni del sacerdote al centro dell'indagine. E il Giornale apre, così come il Riformista che ha tirato fuori la notizia sulla vicenda di Silvio Berlusconi. L'audio shock del giudice: Berlusconi era innocente. Sono degli audio poi trasmessi ieri da Quarta Repubblica. La toga che si occupava del caso di Silvio Berlusconi ammette c'era un plotone di esecuzione. E su questo, anche su questo, arriveremo tra poco, sulla vicenda di Silvio Berlusconi, così come su tante questioni. Quella sulla quale voglio aprire, parleremo di Silvio Berlusconi, parleremo ovviamente della questione appalti e della questione del MES, che è più che altro una vicenda politica, come già dicevamo prima, fatta appunto di questioni e di tensioni politiche. Ci occuperemo anche delle battaglie di Black Lives Matter, che insomma iniziano ad avere delle derive sulle quali si può riflettere, discutibili, tra cui quella di dire, per esempio, che il fatto che negli scacchi il bianco muova prima è razzista. Questa è un po' la sostanza della cosa. Ci arriviamo tra un attimo. Prima però i treni, chissà quanti di voi hanno viaggiato, si preparano a viaggiare in treno nei prossimi giorni, saranno giorni almeno in parte di partenze, non molti gli italiani che andranno in vacanza. Ci ha raccontato il Sole 24 Ore l'altro giorno con un sondaggio, ieri con un sondaggio, però chi viaggerà, anche chi parte solo per il fine settimana, rischia di trovarsi con una serie di discreti problemi. Il primo dei quali è che da regione a regione cambiano le regole di distanziamento dai sedili. Cioè, in alcune regioni ci si può sedere nel sedile accanto all'altro passeggero, in altre regioni no. E a volte queste regioni sono confinanti. E quindi succede, come ci racconta il quotidiano La Repubblica a pagina 18, possono succedere cose come questa. Gli sfortunati piemontesi di ritorno domenica sera sull'interregionale Albenga-Torino. Treno con tutti i posti pieni, partito dalla Liguria. A Savona, quelli che avevano trovato spazio sui sedili marcati con la X sono stati fatti scendere. No, ma e sono saliti su due bus, occupando solo la metà dei sedili, diretti verso Torino. Stesso trattamento per i lombardi che arrivavano alla stessa ora da Levante. Bloccati a Genova, sono stati fatti salire su un nuovo treno speciale e due bus, in modo che fossero distanziati, con tutte le difficoltà del caso e i ritardi. La Polfer è dovuta intervenire sul Grosseto Milano, che in Liguria si era riempito oltre misura, per far scendere un po' di gente. Una gestione del traffico che Trenitalia definisce, eufemisticamente, molto complessa da portare avanti. Si capisce che la società vorrebbe regole uguali per tutta Italia, racconta Diego Longhini appunto sulla Repubblica a pagina 18. Ed è un tema del quale si occupa anche La Stampa, con un'intera paginata firmata da Alessandro Mondo per quanto riguarda il pezzo principale, e poi un'intervista di Francesco Rigatelli con un membro del comitato tecnico scientifico, perché ancora una volta qua non si capisce niente. Presidente del Piemonte dice: ho chiesto al nostro comitato tecnico scientifico un parere formale sulla compatibilità di queste misure, ossia di togliere il distanziamento all'interno dei treni, almeno in Piemonte. Tenendo conto dello status epidemiologico in Piemonte, se arriverà il via libera sono pronto ad emettere un'ordinanza da sottoporre ai presidenti delle regioni confinanti, perché i dati della regione Piemonte dal punto di vista sanitario sono buoni, però il problema resta, perché le regioni del nord, racconta Alessandro Mondo, sfidano il governo alcune appunto hanno abolito, come la Liguria, le distanze obbligatorie sui treni. E intanto parla Luca Richeldi, pneumologo, membro del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute, e parla appunto con Francesco Rigatelli, e sulla stampa gli dice: il distanziamento fisico è ancora necessario e in particolare sui treni. Quindi, come capite, cioè, almeno mi par di capire, che non ne usciremo molto presto, e se dovete viaggiare da una regione che consente di occupare tutti i posti a una regione nella quale alcuni si prevede l'alternanza, beh, aspettatevi di poter essere fatti scendere dal treno e imbarcati su un pullman. È un po' surreale, francamente. Cosa ancora? Vi porterei subito su tutta la questione razzismo e su qualche deriva che viene presa dalla questione e che può essere interessante tanto per noi, per la nostra industria, quanto più in generale per le discussioni che apre, se volete. Poi potete vederla come vi pare. Il Foglio, con un pezzo di Giulio Meotti, ci porta sul tema del mondo della moda. Il mondo della moda e il razzismo. Giulio Meotti ci racconta di quello che sembra essere una sorta di attacco da parte di un pezzo della stampa internazionale al mondo della moda italiano. Sbiancare il fashion, si intitola. Come disse una volta Coco Chanel, per essere insostituibili bisogna essere sempre diversi. Non è bastato che tutti i brand della moda italiana abbiano espresso solidarietà alla comunità afroamericana, o che Valentino in due post abbia preso posizione per il cambiamento, o che Gucci abbia persino deciso di sospendere le attività negli Stati Uniti il 4 giugno per consentire ai dipendenti di trascorrere una giornata di riflessione pagata e onorare George Floyd. Enough is enough, recita il post di Donatella Versace. It's never enough, avrebbe dovuto scrivere. Appunto, non è bastato che i nostri brand fossero da anni impegnati in campagne di sensibilizzazione su questi temi, che non esista settore commerciale più woke sul fronte dei diritti, che ad esempio Vogue Italia abbia dedicato numeri interi alle modelle di colore, o che Benetton abbia lanciato la pubblicità Nudi come contro il razzismo, che la stilista Stella Jean abbia portato anche l'immigrazione in passerella alla settimana della moda di Milano, che Gucci abbia promosso borse di studio a favore della comunità afroamericana. Prima l'accusa rivolta alla moda di appropriazione culturale. Per inseguire melting pot esotico e diverso, i brand avrebbero usato elementi di altre culture. Ora, sull'onda della protesta, arriva l'attacco a tutti i grandi marchi italiani in nome della guerra al privilegio bianco. Quanto è colpevole l'Italia nell'attuale crisi razziale della moda? Molto, scriveva ieri il Guardian, non da solo tra i giornali internazionali. E poi c'è questa storia degli scacchi, che in realtà non è la prima volta che torna, a dire il vero. La troviamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 11, ne scrive Leonardo Cohen. Gli scacchi sono razzisti solo perché muove il bianco prima del nero? La provocazione arriva da Radio ABC di Sydney, che l'ha chiesto all'economista John Adams. Nel 2015 guidava la rappresentativa australiana. Lui l'ha subito twittato il 23 giugno e la notizia è divenuta virale e ha scatenato risentite reazioni. Per Karpov e Kasparov, i più grandi scacchisti degli ultimi decenni, una solenne corbelleria, una follia, difesa peraltro scontata, non si sputa sul piatto di chi ti ha arricchito. E però a voler insigare spesso stereotipi razzisti e pregiudizi si annidano subdolamente nella nostra cultura, figuriamoci negli scacchi, che esistono da 26 secoli, gioco assurdo a simbologia di potere e intelligenza, raffinate strategie e feroci scontri virtuali, al punto da divenire metafora del nostro vivere e morire. Ci dice Cohen che è comunque un déjà vu. L'anno scorso, per la giornata ONU dedicata all'eliminazione delle discriminazioni, il norvegese Magnus Carlsen, allenato da Kasparov, e l'indiano Anish Giri hanno giocato invertendo la regola. Ha mosso il nero per primo. Ha vinto, come sempre, il migliore. Una pausa. Mattino. Mi sembra addirittura assurdo che continuiamo a parlare di MES. Il problema è molto semplice: o ci sono le condizionalità e non l'accettiamo, oppure non ha condizionalità e lo accettiamo. Stop, fine. Non riesco a capire tutte queste chiacchiere a cosa servono. A cosa servono, amico mio? A mantenere delle posizioni politiche. E lo rendono abbastanza chiaro i commenti che troviamo sui giornali di oggi. E me ne voglio citare due su questo tema. Il primo è quello di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che riprende, perché tutto parte dalla lettera di ieri al Corriere della Sera di Nicola Zingaretti, che ne aveva mandata una anche al Sole 24 Ore più o meno sullo stesso tono. Però, insomma, sicuramente il tema centrale di questa giornata è la discussione, ancora una volta, sul fondo salva stati. Però, ripeto, è una discussione molto politica, molto poco pratica in questo momento. Fosse così semplice come dice l'ascoltatore, beh, non ci sarebbe alcun dubbio. Scrive Lina Palmerini: alla fine l'offensiva di Zingaretti sul MES non ha prodotto novità se non l'ennesimo scontro con i 5 Stelle, che sul no al prestito europeo trovano un mastice in grado di tenerli uniti nonostante le divisioni. Lo snodo qual è? Per quale motivo Nicola Zingaretti ha deciso di mandare questa lettera e di forzare un po' la mano sul tema dell'utilizzo fondo salva stati? C'era l'esigenza per il leader Dem di prendere un'iniziativa e farlo su un tema scomodo e divisivo come il MES, per rispondere agli attacchi, anche interni, di chi dice che il PD è diventato subalterno ai grillini. O peggio, subalterno all'immobilismo dei 5 Stelle e di Conte, che non sa più come governare il movimento. C'è poi un risvolto bipartisan, cioè che sul filo del prestito europeo si sviluppa il dialogo tra PD e Forza Italia, che passa, ci dice Lina Palmerini, anche dalla legge elettorale proporzionale. E infine il rapporto privilegiato che il segretario vuole tenere con la Merkel e con Bruxelles, nel senso che mentre il premier sta dimostrando di non essere in grado di controllare i grillini sul MES, il leader Dem si smarca per garantire quella relazione speciale che il PD ha sempre avuto con i vertici europei e per la quale è stato, aperte virgolette, ricompensato, chiuse virgolette, con la posizione di Gentiloni in commissione e la presidenza di Sassoli in Parlamento europeo. Si chiama MES, ma dietro ci sono i segnali che Zingaretti vuole mandare ad alleati ed avversari. Quindi, come vedete, una partita essenzialmente politica. Come ci rivela anche il commento di Antonio Polito sul Corriere della Sera, dice: non risulta che durante gli stati generali il presidente Conte abbia messo al centro delle sue pur amplissime consultazioni la domanda: che dobbiamo fare del MES? Singolare, no? Il dilemma più controverso sul futuro dell'Italia non pare essere stato oggetto di riflessione nella villa nella quale il premier si riprometteva di reinventare il paese. Parole sue. Meno che mai lo è stato nella sede anche più appropriata del Parlamento, che anzi Conte ha finora accuratamente evitato. La ragione è molto semplice. Sul MES Conte non ha la maggioranza, o meglio, ne ha un'altra. Ha quella di prima. La maggioranza giallo-verde. Se oggi si votasse alle Camere sul meccanismo europeo, che ci consentirebbe di avere prestiti fino a 36 miliardi con interessi quasi pari allo zero per finanziare la sanità pubblica, vincerebbero i contrari. Lega e 5 Stelle tornerebbero insieme come ai vecchi tempi. Lo stesso vale per i decreti sicurezza, varati quando Salvini stava al Viminale. La loro revisione era nei programmi politici della nuova maggioranza, in parte anche nelle raccomandazioni del Capo dello Stato, per motivi costituzionali, ma non si procede, perché i 5 Stelle, anche su questo, sono quelli di prima. Quei decreti li hanno votati e lo stesso vale per la ormai annosa questione della concessione autostradale. I pentastellati sono prigionieri del passato, hanno cambiato alleati, scrive Polito, ma non cultura politica. E però questo no al MES, qualche problema, o questo traccheggiare sul MES, qualche problema rischia di crearlo, e non è la prima volta che emerge questo, io ve lo segnalo come un dato, ed è il fatto che i cosiddetti falchi nella trattativa per i restanti fondi europei potrebbero a questo punto dire: vabbè ragazzi, ma se l'Italia non vuole il MES, evidentemente di questi soldi, dei soldi europei, non ha bisogno, quindi stringiamo un po' la cinghia, cioè tutte queste concessioni che stiamo facendo servono davvero? Lo sottolineano sul quotidiano La Repubblica, pagina 3, Alberto D'Argenio da Bruxelles e Tonia Mastrobuoni da Berlino. portando insieme il tema, tanto questo tema quanto l'incontro che c'è stato ieri tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, i quali ovviamente parlano di recovery fund, ma con un occhio abbastanza chiaro anche a queste questioni. Faremo tutto il possibile per convincere i nostri partner, l'Europa ne ha bisogno. Emmanuel Macron sfrutta la prima visita di Stato post-Covid in Germania per mandare un messaggio chiaro. La promessa franco-tedesca di un recovery fund che aiuti i paesi più colpiti come l'Italia è intatta. Il cuore di quell'impegno resta il buon equilibrio di 500 miliardi di trasferimenti da non rimborsare e 250 miliardi di prestiti partorito dalla Commissione su impulso di Parigi e Berlino. E però, appunto, il tema è anche questo, che il negoziato non sarà facile. Le obiezioni dei cosiddetti frugali Austria, Olanda, Svezia e Danimarca continuano a incombere. Francia e Germania sono in pressing per un accordo a luglio, chiamato a salvare Italia e Spagna, e tocca a Conte aiutare i partner nei negoziati con Rutte, Kurz, Frederiksen e Laufen. Merkel e Macron contano di convincere i frugali con un bilancio europeo che corrisponda alle loro sensibilità e salvando i loro sconti ai versamenti alle casse di Bruxelles. Ma l'Italia deve permettere ai quattro rigoristi di tornare a casa e passare il vaglio dei loro parlamenti. E quindi dare anche l'impressione, per così dire, di essere attenta a tutto questo. È un tema che rimarrà, come capite, al di fuori della mera politica nazionale e si estende ovviamente oltre i nostri confini e ad una trattativa più ampia. Anche questo uno spunto di riflessione. C'è poi la questione degli appalti, che è molto, la trovate molto naturalmente un po' su tutte le pagine dei giornali. Vi prendo dal Sole 24 Ore innanzitutto il pezzo di Giorgio Santilli. Già qualche ascoltatore ci chiede cosa vuol dire che non ci saranno gare. Il dettaglio lo spiega bene Giorgio Santilli a pagina 3, perché il titolo del Sole 24 Ore è proprio questo, a pagina 3 del Sole 24 Ore: appalti pubblici un anno senza gare. Cosa succede? Innanzitutto salta il famoso modello Genova. Tanto si è parlato del modello Genova, ma quel modello Genova non si riesce a fare. Ci sono, anche qua c'è un fuoco di veti incrociati per arrivare a un modello di quel genere. Verranno investite dei poteri straordinari le stesse stazioni appaltanti, però si vara un anno bianco antiburocrazia. Cosa vuol dire? Un regime straordinario fino al 31 luglio 2021 con affidamenti senza gare per tutte le opere sotto i 5 milioni di euro e per quelle sopra che saranno considerate urgenti ai fini dell'emergenza non solo sanitaria ma economica. La lista delle opere prioritarie che arriverà con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà la corsia veloce che riguarderà non solo gli affidamenti ma anche l'iter autorizzativo dei progetti. Una corsia ultra veloce riservata a due grandi priorità, green e banda larga. Questo il racconto di Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore. C'è anche qualche commento in giro sui quotidiani, ci arriviamo dopo il traffico. Mattino. Oh, se è vero l'ascoltatore che dice, riferendosi ai paesi frugali, ma voi dareste fondi di contribuenti europei a un paese che dà buoni in soldi ai nonni per fare i nonni? No, non è male, non è male, non è male. Allora, la questione degli appalti naturalmente resta aperta, perché il decreto semplificazioni dovrebbe arrivare all'approvazione a breve. Speriamo che veramente sia un decreto semplificazioni e non sia scritto in burocratese. Qualche bozza che è circolata nelle scorse ore, devo dire, faceva tremare, terrorizzava, perché era la solita cosa. Allora, il riferimento al DLGS numero 396 al comma 1, sono sostituite le parole stazione appaltante con stazione, non, cioè, il rischio è che non ci si capisca niente, però dovrebbe arrivare in settimana. Sul tema degli appalti scrive Sergio Rizzo oggi sulla Repubblica, pagina 7, un commento piuttosto duro, devo dire la verità, che si intitola "Scorciatoie, non semplificazioni e mancano i controlli rigorosi". Funzionari pubblici che non firmano le pratiche, nella migliore delle ipotesi perché impauriti dal rischio dell'avviso di garanzia. Appalti con procedure bizantine che costringono le imprese a presentare 3 volte gli stessi documenti, al punto che per aggiudicare una gara ci vuole più che realizzare l'opera. E poi tempi morti biblici, valanghe di ricorsi sui formalismi, conferenze dei servizi che durano anni in un continuo conflitto di poteri e scaricabarile di responsabilità. Risultato: nonostante sia disponibile per le infrastrutture che potrebbero essere il motore della ripartenza una somma enorme, valutata dal Cresme in 199 miliardi, 199 miliardi disponibili, la maggior parte di quei soldi dorme placidamente nel pantano della burocrazia, e 109 miliardi riguardano opere che sono attualmente in fase di progettazione. Dice Rizzo, insomma, se c'è un paese che ha bisogno di semplificazioni è il nostro, ma di semplificazioni vere che affrontino e risolvano problemi alla radice, non invece, come quasi sempre accade, di scorciatoie. Il decreto semplificazioni, almeno nelle forme che conosciamo e nelle bozze che conosciamo, potrebbe essere meglio battezzato decreto scorciatoie. Velocizzare certi meccanismi in un momento così grave ha sicuramente un senso. Il problema è cosa accadrà dopo il 31 luglio del prossimo anno, quando le misure contenute in questo decreto scadranno. Si potrà continuare ad assegnare senza gare i piccoli lavori come prevede l'articolo 1 e gli appalti fino a 5 milioni con quella che sembra una specie di trattativa privata, con la conseguenza di mettere il 98% dei lavori pubblici fuori dalle regole del mercato, quindi fuori gara? E queste sono alcune delle domande che si pone Sergio Rizzo, pagina 7 della Repubblica. Ancora sul Sole 24 Ore, e poi ci spostiamo a parlare della vicenda Berlusconi per l'altro grande dossier, che è il dossier fiscale. Oggi, appunto, come vi dicevo, la stampa intervista il ministro Luigi Di Maio, il quale dice subito una riforma dell'IRPEF. Salvatore Padula, a pagina 25 del Sole 24 Ore, nei commenti, annuncia di fatto che il Sole 24 Ore farà partire un'iniziativa che è più che altro di fatto uno spunto di riflessione, una serie di spunti di riflessione appunto sulla riforma fiscale, ricordando Padula che la riforma fiscale è una cosa seria, che non si improvvisa, che non si usa per tirarne fuori slogan da campagna elettorale, che richiede tempi adeguati, che impone una condivisione degli obiettivi, che sollecita un adeguato confronto tra politica, parti sociali, accademici, tecnici, esperti, e che apre anche una riflessione sul ruolo dello Stato, sui servizi da garantire ai cittadini e sulla loro qualità. Quindi questo è il tema. Sul Sole 24 Ore si apre questa riflessione. Il 31 gennaio già il direttore del Sole 24 Ore aveva aperto il dibattito. Oggi a firmare uno dei pezzi è Mario Baldassarri, l'economista e, come ricorderete, anche ex politico. La questione Berlusconi, qua è grossa questa cosa, anche se è una vicenda che ormai risale al passato, e però è la vicenda che ha portato Berlusconi, lo ricorderete, ad essere condannato con la condanna di fatto a fare i servizi sociali, in sostanza. Il giornale che tira fuori tutta la vicenda è Il Riformista, con Piero Sansonetti, il direttore, il quale ci fa sapere che la sentenza contro Berlusconi, così scrive, era sbagliata e forse pilotata. Ora, la vicenda è estremamente complessa, ma per riassumerla per sommi capi, ha a che fare con la società, lo ricorderete, la presunta finta mediazione di Agrama. L'ipotesi era che Mediaset avesse comprato dei film americani attraverso questa finta mediazione. La differenza tra prezzo vero e prezzo falso divisa tra le due aziende, quella di Agrama e la stessa Mediaset, per abbassarsi le tasse, e su questa base Berlusconi era stato condannato. La sentenza era arrivata in Cassazione e in Cassazione il giudice, che uno dei giudici che si è occupato di questa vicenda, lo racconta appunto tanto il Riformista quanto il Giornale, di uno di questi giudici ci sono delle registrazioni, delle registrazioni delle quali lo stesso Berlusconi aveva parlato. Un giudice, relatore in Cassazione, il dottor Franco, il quale dice in queste registrazioni: Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone. Questa è la realtà. A mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia. L'impressione è che tutta questa vicenda sia stata guidata dall'alto. In effetti hanno fatto una porcheria, perché che senso ha mandarla alla sezione feriale della Cassazione? Voglio, per sgravarmi la coscienza, perché mi porto questo peso del ci continuo a pensare, non mi libero. Io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo. E questo racconto è evidentemente destinato a fare rumore, perché è stato uno dei punti di svolta degli anni recenti della politica italiana, associato al fatto che, come racconta Sansonetti, in realtà il Tribunale Civile ha dato torto al penale, ossia il Tribunale Civile ha stabilito che la società Diagrama non era una falsa società, ma era una società vera, effettiva, che funzionava normalmente, e quindi sotto quell'aspetto in realtà i giudici penali avrebbero preso un abbaglio. Tutto questo lo troviamo sul Riformista e sul Giornale, a segnare un ennesimo capitolo di questa fase molto delicata, nuovamente molto delicata, e direi da 30 anni molto delicata, nel rapporto tra politica e giustizia. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. I nostri ospiti, avremo Giovanni Toti, presidente della Liguria, per parlare di autostrade e non solo, a questo punto anche di treni, visto che ce ne siamo occupati poco fa, e poi avremo il sottosegretario all'economia Baretta, il MES, le semplificazioni, il codice appalti. Dopo potete anche chiamarci se volete, 800 24 00 24, tra poco.